Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Cari amici radioascoltatori, bentornati sulle frequenze di Blu Radio Veneto con una nuova puntata di Fuori di Noi, trasmissione dedicata al mondo degli oratori e al mondo giovanile. Ai microfoni Anna e Cristian. Ciao Anna. Ciao Cristian. Ecco, già questo partiamo bene. Salutiamo ovviamente anche la regia di Edi Daici che dal vetro appunto ci saluta e ci accompagna in questo tour negli oratori, nel mondo appunto giovanile, nei progetti che la grande famiglia del Noi coltiva, fa crescere a 10 anni dalla sua fondazione. Ricordiamolo appunto, quest'anno, l'abbiamo detto più volte Anna, è il 10° compleanno dell'associazione Noi, che è una associazione a livello nazionale, che è un'evoluzione del vecchio ANSPI e che si distribuisce in tutto appunto il nostro paese con più di 1300 realtà e circa 350.000 soci. La novità, la specificità di questi oratori, quando parliamo di circoli, padronati, oratori Noi, è che si parla di ambienti che accolgono giovani, adulti e anziani. Non è quindi un oratorio a misura di ragazzo, non solo, ma a misura di famiglia, di comunità. Non è un caso che parrocchia e oratorio appunto viaggiano sullo stesso binario, pur in modalità e specificità diverse. Ma quando parliamo di oratori parliamo anche dei gruppi presenti in parrocchia, Anna, e noi abbiamo una collaborazione che da qualche anno appunto viene rinnovata con il gruppo ACR. Infatti proprio questa settimana ritorneranno, non in questa puntata ma nelle prossime, ritorneranno dei gruppi ACR che ci verranno a raccontare cosa di bello fanno all'interno del proprio gruppo parrocchiale. Ma so che c'è stata recentissima messe una grande festa. Sì, allora il 13 maggio, domenica scorsa, c'è stato il convegno diocesano ACR e quindi praticamente sono arrivate a San Nicolò tutte le parrocchie, ecco, della diocesi di Treviso, quindi ragazzi ACR con i loro educatori. E purtroppo il tempo non è stato favorevole, infatti abbiamo dovuto rivedere un po' il programma, però nonostante questo è andata molto bene e i ragazzi sono stati contenti ed erano in tutto 1600. Ecco, noi abbiamo letto anche un breve resoconto, una breve cronaca anche sulle quotidiani qui diciamo locali. Il tema del convegno, come l'avete poi organizzato? Cosa, ci sono stati dei giochi, ci sono stati dei momenti, la messa con il vescovo? Allora beh, appunto innanzitutto la parte più importante, quindi la celebrazione della Santa Messa presieduta dal nostro vescovo, e poi i ragazzi sono rientrati nei loro vicariati, quindi hanno scelto appunto una parrocchia all'interno dei loro vicariati dove poter svolgere, ecco, le attività pensate per il mattino, e dopo anche dei giochi, ecco, il pomeriggio, nel tardo pomeriggio, e poi conclusione insomma verso le 4, 4 e mezza. Ma ci racconti questo convegno, perché ci sei stata anche tu ovviamente. Certamente. Quindi, sì. Quindi ti sei divertita, è stato bello, rispetto, io so che hai partecipato a tantissimi altri momenti diciamo diocesani di incontro, è stato un momento speciale, è venuta bene, hai sentito un bel clima, hai respirato anche tanta bella amicizia, tanta aria di festa. Hai detto che il tempo non è stato propizio, ma il tempo della festa è stato buono? Sì, è stato bello, e anche appunto se fuori non c'era il sole, nei volti dei ragazzi sicuramente questo sole splendeva, e soprattutto perché la presenza di Gesù ha illuminato sempre tutta la giornata. Molto bene. Allora ricordiamo però che proprio in questo fine settimana ci sono circa 80 ragazzi che hanno scelto, hanno aderito alla proposta del weekend di formazione promosso da Noi Associazione in collaborazione con la Pastorale Giovanile di Treviso, per formarsi, per diventare animatori non soltanto di Grest ma anche di oratorio. Dove sono? Sono a Bibione, presso l'Oasi San Dorotea, proprio in questo fine settimana. L'avevamo lanciata qualche settimana fa, avevamo parlato di questa iniziativa e purtroppo appunto pensavamo che non ci fossero tante adesioni per tanti motivi, invece 80 si sono iscritti a questa bella esperienza, e quindi auguriamo che sia un fine settimana ricco, perché poi diventi ricca l'esperienza all'interno della propria comunità parrocchia. Fuori di Noi ha dei contatti per poterci mandare un'informazione, una foto, qualche richiesta, Anna? Sì, allora si può scrivere una mail a fuoridinoi@libero.it oppure inviare un SMS al numero 320-6146-964. Per poter riascoltare ogni puntata di Fuori di Noi, così come ogni programma appunto che viene messo in onda da Blu Radio Veneto, basta andare sul sito www.bluradioveneto.it e cliccare sul podcast programmi. Lì potrete risentire la puntata, quella preferita appunto, che volete in qualche maniera riascoltare o far ascoltare i vostri amici. Ma adesso, dopo questa diciamo introduzione, questo piccolo prologo, andiamo con il primo momento musicale. Ho scelto la canzone, l'ultimo hit di Cesare Cremonini, Il Comico. Sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare, so far ridere la gente, meno male che non ho fatto il militare. Sì, meno male, sai che risate. C'è chi non conosce Dante, che c'ha tutto da imparare, chi è felice quando piange, chi si veste da soldato a carnevale. Io mi nascondo tra la gente, sì, a carnevale. Non so che fare. Tu, vestita da bambina, prigioniera, vuoi scappare da una perfida regina, così seria da star male. Non so dirti una parola, non ho niente di speciale. Se ridi poi vuol dire che una cosa la so fare. Se mi lancio in una aiuola casco e non mi faccio. Ma è l'occhio ride ma ti piange il cuore. Sei così bella ma vorresti morire. Sognavi di essere trovata su una spiaggia di corallo una mattina dal figlio di un pirata. Chissà perché ti sei svegliata. Si rincorrono i ricordi come cani in un cortile. Tu nemmeno te ne accorgi. Vorrei farti innamorare, ma ti prego non andare. Se puoi rimani fino a domani qui. Vestita da bambina, prigioniera, vuoi scappare da una perfida regina, il tuo principe immortale. Non so dirti una parola, non ho niente di speciale. Ma se ridi poi vuol dire che cosa la so fare. Se mi lancio in una aiuola casco e non mi faccio. E l'occhio ride ma ti piange il cuore. Sei così bella ma vorresti morire. Sognavi di essere trovata su una spiaggia di corallo una mattina dal figlio di un pirata. Chissà perché ti sei svegliata. Cesare Cremonini con Il Comico. Ti è piaciuta questa canzone? Bella. È bellissima. Io credo che in Italia ci siano tanti ragazzi, vedo anche giovanotti e compagnia, che veramente i cantanti oggi sono i nuovi poeti, diciamo, della nostra generazione, perché anche questa canzone ha delle parole bellissime. Bravissimo Cesare Cremonini. E col passare del tempo, come il vecchio, come il vino che invecchia, diciamo, con il tempo, anche Cesare Cremonini con gli album riesce sempre a perfezionare e ad aumentare, diciamo, la sua carica poetica nelle canzoni. Io mi sto impappinando come non so che cosa, vero Anna? È la seconda volta che ti faccio ridere. Prima ho detto invece di recentemente, recensamente. Quindi sottolineate tutti gli errori che faccio durante appunto la trasmissione Fuori di Noi, mandateli all'SMS, all'email che prima Anna vi ha detto, e vi consegneremo un piccolo pupazzetto a cura della regia di Eddie Daici, che ne ha diversi scatoloni, perché io faccio tante papere, vero Anna? No, ma è il bello della diretta. Ah sì, davvero, è per quello che ridi così? Ok, adesso per favore rimani in piedi, ok, e continuiamo. Allora abbiamo un ospite, Anna, al telefono, e vediamo se c'è. Sabina, ci sei? Ciao, ciao, sono qui, ciao a tutti, ciao, ciao agli ascoltatori, ciao Cristian. Ciao, ciao, e ben trovata ai microfoni di Blu Radio Veneto con la trasmissione appunto dedicata al mondo degli oratori. Allora Sabina, vuoi parlarci, innanzitutto presentati un pochettino, da dove ci stai chiamando, dove ci stai appunto parlando in questo momento? Allora io chiamo da Marcon, che è il mio paese di residenza, sì, nel quale facciamo queste attività di animazione da tanti anni. Sì, io sono una delle due fondatrici di animazione in corso, l'altra è mia sorella, sì. Ognuno ha i suoi difetti e io ho lei. Bene, mi pare che cominciamo molto bene, dopo ci rivedremo a casa, ok? Esatto, siamo nate circa 5 anni fa come animazione in corso, e animazione in corso è nato soprattutto perché noi facciamo animazione ormai da una ventina d'anni. E quando andavamo nelle scuole con i nostri spettacoli, incominciavano a chiederci di andare ad animare nelle parrocchie, di conseguenza, per poter andare ad animare nelle parrocchie abbiamo aperto questa associazione, che è assolutamente no profit, certo. Per cui potevamo rivolgerci alle parrocchie, e nel percorso appunto di queste animazioni nelle parrocchie abbiamo incontrato Don Dario Magro, che è stato un po' il nostro spirito guida, certo. Ci ha portato a fare un sacco di altre cose nuove, tra cui anche la storia dei Grest degli ultimi 2 anni, e abbiamo aperto un laboratorio di teatro nell'oratorio. Ecco, allora noi parleremo del Grest in un secondo momento dopo. Parlaci di questo teatro, cioè voi praticamente all'interno dell'oratorio di Marcon, se ho ben capito, state portando avanti un corso, diciamo, che ha la finalità e che si concretizza, diciamo, con la realizzazione di uno spettacolo che è imminente, perché sta per essere, diciamo, presentato, mi pare, in prima nazionale, diciamo così. Quando, dove, chi segue questo corso e quanti ragazzi ne fanno parte? Raccontaci un po' questa esperienza. Sì, allora noi siamo ospiti dell'oratorio appunto della parrocchia di Marcon, sì. Occupiamo gli spazi dell'oratorio, abbiamo durante l'anno un turnover di un centinaio di ragazzi, ragazzi e bambini dai 3 ai 15 anni, noi praticamente con 3 lezioni alla settimana portiamo in scena un musical. Però allora il nostro non è, come scopo non è quello di andare a fare le tournée internazionali e neanche nazionali. Il nostro, sì, scopo è far sì che i bambini, i ragazzi riescano a relazionarsi tra di loro, a relazionarsi con gli adulti e ovviamente ad acquisire delle tecniche teatrali che poi, se qualcuno vorrà portare avanti quando sarà più grande, sicuramente ne trarrà beneficio. E appunto è più un servizio socialmente utile, lo chiamiamo noi, perché ad esempio i bambini della scuola materna andiamo noi a prenderli nella scuola materna parrocchiale, li portiamo al teatro, fanno lezione fino alle 5, dalle 3 e mezza alle 5 di sera con noi, poi i genitori se li possono venire a prendere alle 5. Però esatto, questo io lo chiamo il servizio socialmente utile, perché questi genitori sono molto più tranquilli, nel senso che non hanno il problema di andarseli a prendere di corsa alle 3:30 perché ci siamo noi. Certo, certo, e quindi possono lasciare, diciamo, anche con un'attività che sicuramente fa esprimere loro anche un po' di creatività, vincono anche un po' di timidezza, e esatto, io credo che possa servire anche, anzi sicuramente serve anche alla scuola, perché acquisiscono anche forse una proprietà di linguaggio, di atteggiamenti, di comportamenti anche fisici che vanno molto bene, che forse, anzi, se qualche insegnante mi sta ascoltando in questo momento, si stanno un po' perdendo anche a livelli molto superiori rispetto alle medie, cioè i comportamenti, per esempio, anche fisici, stare per esempio seduti su una sedia, su un banco, stare composti, come si diceva una volta, cioè in ordine, ben con la schiena ben dritta, e parlare in una certa maniera, ascoltando gli altri, cercando di alzare la mano, di intervenire. Penso che queste sono anche tecniche che vengono tranquillamente imparate, addestrate, affinate anche durante una esibizione teatrale, perché i tempi oggi nella commedia sono fondamentali, penso anche nella storia che state per rappresentare. Ma qual è la storia che quest'anno sarà, diciamo, oggetto del vostro spettacolo, diciamo, finale? Allora, noi domani sera porteremo in scena La Bella e la Bestia, rivisitata ovviamente, dando un nostro stile alla storia e portando in scena 70 bambini. per cui sì, tanti bambini. Esatto, ognuno di loro ha una parte, ognuno di loro ha il suo costume, ognuno di loro ha i propri costumi e ognuno di loro è parte fondamentale dello spettacolo. Io dico sempre ai bambini e ai ragazzi che ognuno di loro ha proprio un ruolo che è fondamentale. Al di là del protagonista, sono tutti protagonisti. Certo, per noi certo. Sono tutti protagonisti allo stesso livello e cerchiamo di lavorare soprattutto con i ragazzi che hanno più difficoltà, con i ragazzi timidi, con i ragazzi che ci sono stati inviati proprio dalle scuole e dagli insegnanti perché avevano difficoltà ad esprimersi durante un'interrogazione e i risultati migliori per noi poi sono veramente le soddisfazioni più grandi, le raccogliamo proprio da questi bambini che hanno delle difficoltà, perché lavorare con i bambini portati per far teatro o qualsiasi altra cosa è facile, no? Certo. La sfida è riuscire a portare su un palcoscenico davanti a 500 persone che li guarda proprio questi bambini che sono in difficoltà. Quindi avete mi pare di capire, avete anche una grande collaborazione fattiva, concreta anche con le scuole. Questo non è da poco, è importantissimo, perché tante volte no, si lavora anche sul ragazzo a compartimenti stagni, scuola per una cosa, attività extra per un'altra. Invece il fatto di parlarsi tra appunto in tutte le attività, tra le attività che compongono il ragazzo anche nel dopo scuola, credo oggi sia fondamentale. Chi per esempio fa calcio e quindi ha un allenatore, l'allenatore dovrebbe sentire anche l'insegnante, perché se il bambino non si comporta bene per esempio giocando a pallone, probabilmente non si comporta bene neanche a scuola. Quindi bisogna intervenire magari dal punto di vista di progetto educativo a scuola da un lato, dal punto di vista del progetto sportivo da un altro lato, e così si riesce a risolvere il problema. Se si lavora invece a compartimenti stagni o non si condividono certe informazioni, e questo ovviamente fa entrare in campo anche la famiglia, credo che sia difficile anche risolvere certi problemi che poi il bambino da piccolo si porta avanti e poi in qualche maniera diventano eclatanti a età un po' più tra virgolette responsabili, più mature. Ma certo, ma è quello che dico sempre noi. Se lavoriamo dai bambini finché sono e seminiamo, cerchiamo di seminare bene, ma tutti dobbiamo seminare bene, a partire appunto dalla famiglia, per arrivare agli insegnanti, per arrivare poi a tutta la società che circonda il mondo del bambino, avremo sicuramente dei cittadini più consapevoli e degli adulti più consoni, no? E anche forse più sereni. Più sereni nel compiere la grande missione che è quella appunto di educare una persona, un essere umano che oggi è veramente molto impegnativo, visto le tante offerte e soprattutto le tante luci accecanti che il bambino si trova a vivere. Ma poi, c'è Anna che vuole chiederti una cosa, sì. Per quanto riguarda invece anche il GREST, in cui appunto voi avete collaborato con Don Dario Magro, che abbiamo sentito qualche settimana fa. Cosa vuoi chiedere, Anna? Sì, allora visto appunto che ho saputo che lei fa parte anche della commissione che ha curato il sussidio, ecco, vorrei sapere qual è la parte più divertente, ecco, dei lavori insomma che avete svolto. Allora, quest'anno noi abbiamo fatto un lavoro impegnativo dal punto di vista fisico, nel senso che la storia si verte tutto su un percorso che fa Stella insieme ai suoi amici, è un percorso proprio dal punto di vista di un viaggio, per cui noi ci siamo fatti tutte le tappe della storia, cominciando da Venezia per poi finire a Treviso, per poi andare a Padova, per poi andare a Rovigo, eccetera. Non siamo arrivati solo a Viterbo e a Salerno, ovviamente, e a Roma, per una questione proprio logistica, e ogni situazione o quasi ogni situazione descritta nel sussidio l'abbiamo veramente vissuta, toccata con mano. Ah, guarda Cristian, sì, assolutamente sì, ci siamo divertiti tantissimo. La cosa che a me è rimasta più impressa è a Treviso quando a Rovigo, quando una signora che stava pulendo il pavimento della chiesa, sì, rincorsi con lo spazzettone, uscite che ho appena dato la cera, e questo noi l'abbiamo messo nel sussidio. Ma sono cose, quasi tutto quello che abbiamo messo ovviamente è stato esasperato, però l'abbiamo vissuto. Quindi la signora che vi ha cacciato fuori non sa di essere una protagonista di una storia. Bravissimo. Bellissimo. Poi per noi è stato bello anche il prologo, no? Abbiamo praticamente creato un casting per catechiste che è al di fuori della storia, perché è il prologo della storia, ma è assolutamente al di fuori. Certo. Ed è stato divertentissimo poi portarlo in scena con le mamme, perché abbiamo coinvolto le mamme, e portate in scena 10 minuti prima di girare, in modo molto amatoriale ovviamente. E è stato anche quella un'esperienza che ci ha aiutato a capire di più anche il fatto di coinvolgere gli adulti anche nel Grest. Ma assolutamente, che è una parte fondamentale. Tante volte è difficile, ma credo sia un obiettivo fondamentale, perché l'adulto insieme con il ragazzo, soprattutto in un tempo così estivo, molto piacevole, cerca anche di comunicare. Forse quelle parole arrivano più immediatamente che non, tra virgolette, nel periodo invernale. Sabina, ti chiedo una cosa: se per esempio qualche oratorio che ci sta ascoltando, qualche responsabile eccetera, volesse magari contattarvi per sapere se potete fare un piccolo spettacolo, hanno una festa da organizzare e vogliono, diciamo, in qualche maniera avere il supporto, c'è qualche indirizzo email che puoi dare, qualche contatto telefonico? Sì, noi abbiamo animazioni in corso @gmail.com. Sì. Oppure su Facebook, animazioni in corso. Benissimo. Oppure sempre su Facebook, Chiarin Sabina, Chiarin Raffaella, Dario Magro. Poi come contatto telefonico, io ho sempre il mio, che su Facebook è libero, 339-6200114, e mi possono chiamare a qualsiasi ora perché il mio telefono è sempre aperto. Molto bene, allora grazie allora Sabina di questi contatti. Ricordiamo allora l'appuntamento, lo show La Bella e la Bestia, che è appunto sabato, dove? Al teatro? Sabato 19 maggio al teatro Busan di Mogliano. Volevo aggiungere un'ultimissima cosa, poi certo vi lascio. La nostra attività si distingue, e questo ci tengo a precisarlo, perché non è competitiva. Noi continuiamo a dire ai bambini che loro sono in scena e sono tutti uguali, e così lo diciamo anche ai genitori. Il nostro spettacolo non è aperto al pubblico, nel senso che noi lo dedichiamo ai genitori, ai nonni, ai fratelli, per cui chi viene a vedere lo spettacolo sono i familiari dei nostri bambini. E lo spettacolo è assolutamente gratuito, per cui ingresso libero, questo è il nostro slogan. Ho capito. Ingresso libero, uscita a pagamento in base al gradimento, ma ognuno di loro metterà un'offerta, perché comunque è anche un'attività che, oltre alla retta minima che pagano mensilmente, non costa assolutamente nulla alle famiglie, perché noi ci facciamo carico di tutto quello che è lo spettacolo. Molto bene. Anche questo, in questi periodi, fa bene alle famiglie. Sì, è un messaggio. Non va a incidere sul bilancio familiare, che è già in crisi. In è un periodo. Messaggio importante. Sabina, grazie ancora, buon lavoro a Marcon. Grazie Cristian, grazie a voi anche a voi. Grazie ciao, mille, ciao. Grazie di essere intervenuta. Ti aspettiamo, tu sì sei invitato. Va bene, lo so, grazie ciao, Sabina. Grazie, ciao carissima, ciao. Bene, allora adesso mandiamo un altro brano musicale e poi sarà l'epilogo di questa ennesima puntata di Fuori di Noi. L'Anna per voi ha scelto Natalie Imbruglia con Shiver. I walk a mile with a smile, I don't know, I don't care where I am, but I know it's alright. Jump the tracks, can't get back, I don't know anyone. But I'm safe this time, 'cause when you tell me stupid things like you do, yes, I have to change the rules. I'm if you get off at the next stop? Would you just wave as I'm drifting off? And if I never saw you again, could I? E con questa bellissima canzone di Natalie Imbruglia noi vi salutiamo e ci risentiamo la prossima settimana. Anna, non sei contenta? Abbiamo finito? Sì, beh, no non che abbiamo finito, esatto, sono contenta che ci rivediamo la settimana prossima. Quando allora? Sabato? Allora, sabato alle 14 e domenica alle 12.30 naturalmente su Blu Radio Veneto. E salutiamo la regia di Eddie Daici e ci risentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti! Ciao ciao! Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.